Turismo per mestiere, per piacere, da ascoltare. Radio 24 è radio ufficiale di BIT, la borsa internazionale del turismo. BIT è business, giovedì 16 e venerdì 17 per agenti di viaggio e operatori con seminari e workshop. BIT è tendenze, per conoscere nuove mete nel mondo. Dal 16 al 19 febbraio Radio 24 è in diretta da BIT, Fiera Milano Ro. Info su radio24.it.